Roma Parioli, soggiorno 24 dicembre 1966. Care Eleuterio, micione, la casa che mi vide bambina oggi non mi può vedere perché sono qui con te. Strano come questo clima natalizio riesca a cambiare gli uomini e le donne. Non siamo stati capaci di bisticciare. Anche quando hai baciato la mano a mia madre e l'hai chiamata cara signora, io non ho aperto bocca. Ho finto di non leggere nei tuoi pensieri. Fuori nevica. E io penso che la neve, in fondo, non è che un insieme di fiocchi di cotone congelato. Tra poco tu entrerai qui, nel soggiorno, e vivremo il nostro Natale con mia madre, che tu hai chiamato cara signora, la quale verrà qui più tardi a mangiare il panettone. E forse riusciremo a non bisticciare neppure oggi. Sempre tua. Roma Parioli Studio, 24 dicembre 1966. Cara sempre mia, il Natale, sebbene infarcito di dolcezze e di bontà, nasconde in effetti un carattere dittatoriale. Riesce chissà come a trasformare gli uomini, le donne e le suocere. Tua madre, vista in questi giorni, è come Dalida inquadrata in Campolungo. Sembra un'altra. Ieri le ho baciato la mano e nonostante il cara signora, quando lei mi ha chiamato caro figliolo, io non sono riuscito a vincere l'impressione di essere a colloquio con il parroco. Ad ogni modo sappi che io stimo molto il parroco. Tra poco entrerò in soggiorno e viverò con te e più tardi con tua madre il mio Natale. E se anche oggi non bisticceremo, pazienza, sarà per un'altra volta. Eleuterio. Buongiorno e auguri. Altrettanto. Grazie, Eleuterio. Nevica. Vedo, vedo. E trovo che la neve mette di buon umore. A me mette freddo, però mi piace. Anche a me, anche a me. E penso che forse un medico importante ha messo tutto il paese in bianco per qualche giorno. Già, ma il paese sotto la neve non obbedisce agli ordini del dottore Stravizia. Il capitone, gli agnolotti, l'abbacchio... E il torrone, il panettone. Ecco, vedi, queste sono le cose che mi fanno arrabbiare. Odio tutti quelli che allo stesso momento fanno le stesse cose, perché è la consuetudine. Hai ragione, Eleuterio. E per essere sincero, quest'area di festa, vedi, mi dà una certa malinconia. Anche a me. La malinconia delle vetrine tutte uguali, tutte con l'ovatta a significare la neve, e la parola auguri che rimbalza di qua e di là, e i capitoni a centinaia nelle vasche dei pescivendoli. Perché, dico io, il capitone si deve mangiare soltanto a Natale? Per la stessa ragione per cui a Capodanno si mangia il cotechino con le lenticchie. Per tradizione. E io non voglio essere schiavo delle tradizioni. Sono d'accordo con te. E la tombola? Pensa che c'è ancora chi gioca a tombola, capisci? E anche a 7:30. Capito perché il Natale mi mette addosso un po' di malinconia? Certo, certo. Qualche cosa la capisco anch'io. E a che ora vengono i tuoi? Tra poco. Hai preparato tutto? Tutto che? Il pranzo, i regali. È sommamente banale scambiarsi doni a Natale, ma i tuoi sono talmente tradizionalisti. Che vuoi? Si tratta di un'altra generazione. Se non trovano i regalini sotto l'albero, restano male. Io lo odio l'albero, figurati. A proposito, bisognerà che finisca di fare l'attacco delle luci intermittenti. Senza le luci intermittenti l'albero non ha vita. Hai visto le ultime sfere che ho comprato? Oh, ma che modo sbagliato di spendere i soldi. Ma almeno informati prima. Così le abbiamo comprate in due le sfere. Oh. Ah, senti, quando metti i regali sotto l'albero, ricordati che sul mio tavolo c'è un pacchetto per te. Non si può stare lì a guardare gli altri che scartano i regali e noi no. E appunto per questo ho comprato un regalo anche per te. Grazie. Vedi, sono quelle cose che odio, ma di fronte ai tuoi come si fa? Loro ci credono al Natale. L'anguilla marinata l'hai comprata? Sì, anche il tonno, il capitone e gli agnolotti. Perfetto. panettone e torrone li ho comprati io, vergognandomi come un ladro, sai, ma li ho comprati insieme a centinaia di persone che compravano panettone e torrone. Immagino quello che hai provato, la stessa sensazione che ho provato io mentre compravo whisky e pungitopo. Beh, coraggio, facciamo questo sacrificio e prepariamo tutto per benino. E dico, a me non interessa, per carità, ma se tuo padre volesse fare una partita a carte... Ho comprato quelle napoletane e quelle francesi. Perché dico, se c'è una cosa sorpassata, è quella di giocare a carte il giorno di Natale. Comunque hai fatto bene a comprarle. Loro sono così attaccati alle tradizioni. Eccoli! Bene, spegni le luci, accendi l'albero, aspetta. Sì. O dico, sia chiara una cosa, quest'anno a tombola il cartellone tocca a me, tuo padre l'ha tenuto l'anno scorso. Vai ad aprire. Ciao mamma, ciao papà, tanti auguri. Buon Natale mamma, buon Natale, tanti auguri per te, tanti auguri.